Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati alle puntate estive di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Da luglio a metà settembre vi facciamo riascoltare alcune tra le storie più belle e significative andate in onda nel corso dell'ultima stagione. Storie di giovani espatriati al lavoro ai quattro angoli del pianeta. Storie di under 40 che ce l'hanno fatta e hanno un messaggio preciso da lanciare all'Italia, paese che hanno lasciato in cerca di migliori opportunità. Tra poco ascolterete qual è questo messaggio. Oggi vi proponiamo un focus su due professioni, diciamo pure di nicchia per quanto molto ambite, quella del giornalista e quella del musicista. Tra Francia e Germania osserveremo come, oltre le Alpi, le opportunità nel settore dei media e della cultura possano essere maggiori per giovani ambiziosi e dalla proiezione internazionale. Per cominciare ci spostiamo in Francia. Si può essere bravi, parlare e scrivere correntemente in francese e vedere il proprio curriculum respinto ogni volta che si prova a rientrare nella penisola? È questa l'apertura internazionale del sistema dell'informazione italiano? Nome: Andrea. Cognome: Paracchini. Età: 32 anni. Città di origine: Novara. Studi: comunicazione pubblica, sociale e politica a Bologna. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007 a settembre. Per andare dove? Parigi, in Francia. Perché? La Borsa Leonardo. Quale lavoro svolgi attualmente? Giornalista. Dove? Redazione di Altermondo. Tornerai? Certo. J'ai pas choisi de naître ici entre vignerons et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai. Je me le promets. Et si le faux j'emploierai des moyens légaux. Cosa torni a fare? Stattene in Francia. Perché non vuoi stare a Parigi? È una città così bella. Potessi vivere io a Parigi. Andrea, per cominciare, i miei personali complimenti perché hai potuto sperimentare in prima persona l'ipocrisia dei giornalisti italiani. Sempre bravi a fare la morale agli altri, ma ben attenti, quei pochi che possono, a difendere la propria trincea, senza quel minimo di onestà intellettuale utile a guardare in faccia la realtà. Che effetto fa sentirsi preso per i fondelli così quando ci si propone per un lavoro o una collaborazione in Italia? È avvilente, frustrante e anche un po' offensivo dal mio punto di vista. Tocca giustificare di voler vivere nel proprio paese come fosse un capriccio, un lusso da bamboccione, quando sono 7 anni che me la sbrigo da solo. La tua storia è particolare. A soli 32 anni, ne vanti già 7 di vita e lavoro a Parigi. Tutto inizia con una laurea in comunicazione pubblica, 110 lode. Perché hai scelto di fare il giornalista, Andrea? All'università ho capito che volevo occuparmi di alternative, fare un giornalismo costruttivo, per così dire. Un problema si trasforma in un'opportunità. Nell'anno di laurea non risultano aperti i bandi per le scuole di giornalismo, così, e siamo nel 2007, parti per uno stage Leonardo a Parigi presso una rivista culturale. A questo tirocinio ne segue un secondo presso un'agenzia di contenuti editoriali che si trasforma in un contratto a tempo determinato. Ed è in questo momento che, pur ammesso a una scuola di giornalismo in Italia, rinunci. Perché? Perché è stato gratificante vedere che in Francia erano pronti a investire e scommettere su di me con un vero contratto di lavoro, mentre in Italia avrei dovuto io sborsare una cifra astronomica per stare ancora 2 anni sui banchi di scuola senza alcuna garanzia di impiego per il futuro. Più chiaro di così. Il contratto in agenzia diventa tempo indeterminato, ma l'esperienza editoriale finisce in modo burrascoso, così da italiano in Francia ti rimetti a cercare lavoro. Chi ti assume e quale concorrenza sbaragli? La rivista si chiamava Territoire, era un mensile un po' di nicchia sulla democrazia partecipativa. Al colloquio mi sono trovato davanti ai miei 3 futuri colleghi, ero l'ultimo a passare dopo una decina di candidati, tutti francesi, e la cosa più bella è stata che non mi hanno mai rinfacciato il mio essere straniero. Non capita sempre, neppure in Francia. Esatto, in Italia secondo me una cosa così sarebbe un po' difficile, no? Sì, direi proprio di sì, almeno io non ne ho notizie. Anche mi chiedo tra l'altro se in Italia costumi fare selezioni di questo tipo con annunci che girano su internet o addirittura su Twitter. Questo, diciamo, è come andarle a cercare col lanternino. Per te inizia una nuova vita: redazione a mattino a Territoire, freelance il pomeriggio per altre testate. Purtroppo però la crisi avanza e i tuoi datori di lavoro progressivamente chiudono o limitano la tua indipendenza. A questo punto è iniziata la traversata nel deserto, ricordi. Decidi di investire sulla tua formazione: corsi di giornalismo multimediale in Francia e giornalismo ambientale in Italia. Ma l'esperienza più interessante la fai l'anno scorso, quando trascorri oltre un semestre nella penisola cercando lavoro. Come? Ho dovuto sostanzialmente lasciare andare un po' i freni inibitori e superare una certa reticenza caratteriale. Mi sono messo a fare personal branding spinto, veramente senza vergogna, ore su Twitter a condividere documenti e informazioni. Sono stato a tutti i festival di giornalismo, Perugia, Digit, Glocal, e a un sacco di altri eventi legati ai temi che tratto. Allora Andrea, in un mondo normale però chi vanta un curriculum internazionale non dovrebbe avere, come dire, una corsia preferenziale? Quanto è trovato aperto o provinciale il nostro settore giornalistico? Le risposte che mi sono sentito sono quelle che hai citato un po' all'inizio della conversazione. L'apertura internazionale dell'Italia è molto spesso, io ho l'impressione che sia un po' una sorta di fascinazione, a volte a tratti grottesca, per certi miti del giornalismo anglosassone. Qualche anno fa dovevi saper fare tutto col cellulare, se no non eri nessuno, poi dovevi avere almeno 3.000 followers, se no non eri nessuno. Ancora oggi purtroppo va un po' troppo di moda Twitter. Quanto è trasparente il mercato delle assunzioni giornalistiche in Italia, in una parola? Pochissimo. Io almeno, forse sono io che cerco male, ma io di annunci e colloqui, l'impressione è che tutto passi per canali informali. E questa è la cosa più terribile. L'ultima delusione, senza contare i 3 articoli scritti per un periodico italiano, poi pagati con un anno di ritardo, arriva con la partecipazione a un progetto per un magazine digitale su tablet. Com'è andata a finire? È andata a finire che non se ne è fatto nulla, il progetto non era abbastanza maturo a quanto pare. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Ripensando ai consigli dei colleghi senior italiani, mi chiedo: gli editori francesi sono tutti filantropi, i loro giornalisti sono così scarsi che finiscono per preferire reporter stranieri, o forse non sono io all'altezza degli standard del giornalismo italiano, ci scrivi. Io ti giro la domanda: non è forse il mondo del giornalismo italiano non aver capito che un'era è finita e se non assume giornalisti di qualità, dirottando altrove i figli, i parenti e gli amici di, si autocondannerà a morte? È fondamentale capire che non si possono continuare a strapagare solo le grandi firme e lo star system. L'impressione che ho è che la stragrande maggioranza di chi decide delle sorti del giornalismo italiano consideri che la prima voce su cui fare risparmi sono proprio i giornalisti, e ho l'impressione che a ragionare così qualcuno con esperienza e idee è addirittura una minaccia, perché poco a poco è capace di pretendere dei soldi o addirittura eresia un contratto o di voler fare giornalista semplicemente. Nel 2013 pubblichi un ebook in italiano, ma la vera svolta arriva all'inizio di quest'anno, quando il caporedattore della rivista Altermond, per cui collaborava, ti fa una proposta. In una parola, quale? Un contratto. E la sorpresa arriva in fase di selezione. Da buon italiano pensi, beh, se me lo chiedono loro sarà una pura formalità questa selezione. E invece? Invece erano arrivate 200 candidature, c'è stata una prima selezione da cui sono usciti 10 curriculum, tra cui il mio, e poi è passato questo primo scoglio, c'è stato un secondo colloquio in cui ho dovuto presentare un progetto per il nuovo sito della rivista, e ci siamo ritrovati in 3 a cui hanno fatto un secondo colloquio e un test di correzione bozze. E così alla fine, dopo aver superato un'altra volta un'altra selezione in Francia contro dei concorrenti francesi, vieni assunto, ora poco più che trentenne, con quale responsabilità ti confronti? Mi sono ritrovato a dover gestire 40.000 euro e carta bianca per creare un sito a questo trimestrale cartaceo che prima una presenza web non ce l'aveva. Oggi questo sito lo gestisco principalmente io. Grossa responsabilità, ma anche una grandissima opportunità. Andrea, domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? L'Italia e la Francia non sono così differenti tra di loro. Per rimanere nel mio tema, io penso che bisogna un po' forse interrompere questa interpretazione mitologica che si fa in Italia della flessibilità. Ho firmato 3 contratti a tempo indeterminato in 7 anni in Francia. Questo significa che pretendere condizioni di assunzione dignitose e rispettose della propria personalità non significa per forza arroccarsi in difesa del tanto vituperato posto fisso. Bisognerebbe imparare a dare fiducia alle persone e a metterci un minimo di serietà quando si decide di creare un giornale, un sito o qualunque altro progetto editoriale. Ci raggiunge ora in linea Nicola Accardo, giornalista a capo della redazione italiana del sito di informazione francese Melty. Buon pomeriggio, Nicola. Buon pomeriggio. Dal punto di vista delle opportunità professionali non c'è storia tra Francia e Italia, scriveva giovanitalenti@radio24.it Andrea Paracchini. Nicola, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Invidio Andrea per la sua capacità, lo ammiro più che invidiarlo, di fare giornalismo sui temi di sua predilezione in una lingua straniera. Io ho preferito lavorare tra la Francia e l'Italia in questi anni e alla fine sono dovuto sempre tornare qui per avere delle proposte di lavoro più strutturate, diciamo. La tua storia in breve: laurea in Italia e biennio di scuola di giornalismo a Lille, in Francia. Poi scegli di lavorare, a differenza di Andrea, lo hai detto tu stesso, in italiano. Tra le tue prime esperienze professionali, qualcuno forse ricorderà la tua voce anche a Radio 24, prima di tornare 4 anni fa in Francia, dove attualmente dirigi la sezione italiana del sito internazionale Melty. Cos'è Melty e come ci sei arrivato? Melty Group è una rete di informazione per giovani con siti generalisti e tematici che trattano essenzialmente il tema dell'intrattenimento e che da 2 anni e mezzo, ha cominciato a lanciare i siti anche in lingua straniera. Come sono arrivato a Melty? Sono arrivato a Melty semplicemente tramite un'agenzia di cacciatori di teste che effettuava una selezione. Questo è quello che mi manca di più in Italia e che più mi mancava nella mia ricerca lavorativa: una selezione. Una parola per tutte: selezione. Vogliamo selezioni. Nicola, con te vorrei affrontare alcuni punti critici sollevati da Andrea. Il primo primo riguarda l'accesso alla professione giornalistica, perché in Francia è più libero, perché c'è maggiore turnover? Certamente perché ci sono meno squilibri salariali, che invocava anche prima Andrea, e c'è un maggiore adattamento alle evoluzioni della professione e quindi alle innovazioni che vengono introdotte nella professione. Inoltre non c'è un esame di Stato in Francia rispetto all'Italia ed esiste e non esiste. Secondo te ha senso l'ordine dei giornalisti così come è strutturato? Secondo me no, secondo te? Così come è strutturato non ha senso, dovrebbe soprattutto rendersi ancora più flessibile, ma credo che per necessità è diventato già più flessibile. Non ha senso imporre una procedura obbligatoria che mette i paletti e che quindi a volte restringe i talenti. Questione meritocrazia, perché il giornalismo francese assume e offre posizioni di responsabilità a giovani reporter stranieri, mentre quello italiano non solo non fa il contrario, ma a volte appare un po' come una replica di interi alberi genealogici. Il giornalismo francese non guarda la carta d'identità, siamo in un paese multietnico dove ci sono giovani cresciuti con qualsiasi tipo di cognome, qualsiasi tipo di origine, quindi questo credo che sia innanzitutto un fatto culturale. Poi per quanto riguarda la meritocrazia c'è un occhio di riguardo alle scuole di giornalismo attraverso tutta una serie di concorsi che aprono le più grandi redazioni, come mi viene in mente l'Equipe, la Radio RTL o Radio France, la Reuters, la France Press. Ci sono veri e propri concorsi, vere e proprie selezioni che attraverso le quali gli studenti delle scuole di giornalismo arrivano a lavorare con i primi contratti nelle redazioni. Tu come selezioni i tuoi collaboratori, Nicola? Io mi diverto molto perché vado controcorrente rispetto a qualsiasi redazione italiana. Essendo nuovo il progetto, ricevo centinaia e centinaia di mail, richiamo le persone che sono più specializzate rispetto ai temi che intende trattare il sito, quindi faccio fare loro una prova, degli articoli di prova e infine un colloquio. Questo sia per i collaboratori che per gli stagisti. Il risultato è che ho una bellissima carta geografica italiana nella mia redazione. Ognuno proviene da una regione diversa. Che bello. In bocca al lupo, Nicola. Crepi il lupo. Grazie Nicola Cardo. E domanda di rito per Andrea Paracchini. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Partire. Non bisogna lasciarsi bloccare dalla paura di non farcela con la lingua, coi soldi. Io non ho mai fatto un'ora di corso di francese e da quando sono via mi mantengo da solo, quindi per carità, partire. Ora Strada in diretta, noi torniamo subito dopo con la seconda storia della puntata. Giovani talenti. Riprendiamo l'ascolto della puntata di Giovani Talenti, ci trasferiamo ora, come annunciato, in Germania per una storia a forti tinte musicali, musica classica per la precisione. Nome: Margherita. Cognome: Colombo. Età: 33 anni. Città di origine: Meda. Studi: liceo classico e conservatorio. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? In Germania. Perché? Per fare il lavoro che sognavo. Quale lavoro svolgi attualmente? Pianista e direttrice d'orchestra. Dove? Teatro dell'Opera di Lipsia. Tornerai? Alle condizioni di oggi no. La cavalcata delle Valchirie per introdurre la tua storia. Qui in Germania nessuno mi guarda con sufficienza se dico di fare la musicista, perché fare il musicista in Italia è da privilegiati, non certo un lavoro vero. In Germania nessuno si aspetta che io suoni gratis, in Italia sì, e devi anche dire grazie. Margherita, così ci hai scritto a settembre spiegandoci perché hai lasciato il paese. Domanda semplice per iniziare: a chi conviene uccidere così aspettative e prospettive di un intero settore culturale, perché siamo così disallineati dai paesi più avanzati? In realtà è un mistero, perché credo che non convenga proprio a nessuno, perché la musica, così come l'arte, potrebbe essere uno dei veri tesori del nostro paese. Io ho un po' paura che la fonte del problema sia una grande ignoranza. Ecco, hai usato secondo me la parola giusta e corretta. Ignoranza, ce n'è fin troppo in questo paese. La musica è qualcosa che porti nel cuore sin da bambina, un percorso parallelo agli studi tradizionali, poi sfociato negli studi di conservatorio. Quale passione ti ha portato su questa strada? Io sono cresciuta in una famiglia dove l'arte è di casa e la musica, insomma, si è sempre fatto musica, anche se a livello amatoriale si è sempre cantato, e quindi a 9 anni mi sono iscritta a scuola di musica e tutto è iniziato lì. E verso la fine degli studi si concretizza la passione per l'opera. Se dovessi dare un giudizio alla qualità dei nostri conservatori da 1 a 10? Vale solo solo per la mia esperienza, però direi 8 e mezzo. Beh, un buon giudizio. Ti diplomi in pianoforte, direzione d'orchestra e composizioni, specializzandoti nel campo concertistico e operistico. L'Italia, ti chiedo, resta ancora il paese dove studiare musica classica? Lo sarebbe se ci fosse più consapevolezza del nostro patrimonio culturale. Abbiamo i teatri più belli del mondo, ottimi conservatori, ma il livello di preparazione si sta decisamente allineando agli standard, quindi si sta appiattendo. Questo è un po' preoccupante. Resta un paese dove studiare musica, non il dal paese a un paese. A questo punto il colpo di scena, contro ogni aspettativa, inizi a lavorare a soli 25 anni al Teatro Donizetti di Bergamo. Allora, come ce l'hai fatta così rapidamente? Con una grandissima fortuna. Ci vuole. Mi sono trovata al posto giusto al momento giusto, probabilmente. Stavo facendo un corso di perfezionamento per appunto pianisti d'opera, che si chiama maestro collaboratore, e un maestro che lavorava al Teatro Donizetti ha pensato che avessi le qualità giuste e mi ha proposto di cominciare. E vi resti 5 stagioni. In breve, cosa hai fatto e quanto sei cresciuta professionalmente in quegli anni? Ho imparato quasi tutto quello che dovevo imparare sul mondo del teatro, perché quello del maestro collaboratore, cioè il pianista d'opera, non è una professione che si impara sui libri o in conservatorio, bisogna impararla sul campo. Si impara a lavorare a contatto con tutte le professionalità del teatro, dai registi ai cantanti ai macchinisti, ed è qualcosa veramente che si impara solo lì. Ma c'è appunto un ma anche in una storia come la tua, apparentemente perfetta. Purtroppo, ci scrivi, la bellezza del lavoro e la familiarità con l'ambiente non bastavano a garantirmi uno stipendio accettabile per poter vivere in maniera indipendente. Allora, quali erano le condizioni contrattuali? Avevo un contratto a progetto che copriva tutto il periodo delle produzioni, naturalmente. Sì, ma il problema è che i teatri di questa grandezza, quindi di medio-piccola grandezza, hanno una stagione molto breve, di pochi mesi, e quindi dopo pochi mesi uno si deve trovare un altro lavoro. E allora, ecco, proprio per dare un'idea ai nostri ascoltatori, quali altri lavori hai dovuto fare per poterti mantenere nel frattempo? Prima di tutto l'insegnamento, che è imprescindibile per, penso, qualunque musicista, che garantisce, anche se piccola, una minima entrata mensile. Poi lavoravo come pianista accompagnatrice per classi di canto in accademie musicali, mi arrangiavo a procacciarmi contatti per concerti come pianista, come direttrice, avevo un'associazione musicale con cui facevo concerti, spettacoli di vario genere, insomma tantissime cose, ma facevo molta fatica comunque ad arrivare a fine mese. Margherita, è vero che poi è stata un'esperienza in Portogallo a darti la carica per provarci all'estero? Assolutamente, è stata un'esperienza tonificante, sarà stata la bellezza della città oppure immergermi per un mese in un lavoro tanto bello, e ho deciso di tornare a casa e buttarmi nella ricerca di qualcos'altro. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Così me ne sono andata, e ora che vedo il mondo da un'altra prospettiva mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se fossi rimasta in Italia. Margherita, come sei approdata a Nordhausen, cittadina della Turingia di soli 50.000 abitanti? Appena tornata a casa da Lisbona mi sono messa a cercare su internet dove facevano audizioni. Mi sono rivolta verso la Germania perché conoscevo già un po' il tedesco e poi perché mi ha sempre affascinato questo paese. E niente, ho iniziato a battere a manetta tutti i teatri in cui facevano audizioni per il ruolo che mi interessava, e quando mi invitavano ci andavo, e il teatro di Nordhausen è stato il primo che mi ha offerto un contratto molto interessante e sono partita. È stato difficile iniziare? E in realtà non particolarmente, io sono molto adattabile, diciamo, e poi ero così elettrizzata per concretizzare finalmente la mia passione che mi ci sono abituata in fretta. Fermiamoci un attimo e proviamo a spiegare che lavoro fai, per capire anche come in certi ambiti siamo molto lontani dai paesi culturalmente più sensibili e sviluppati di noi. Allora, basta dire che in italiano la parola che definisce la tua specializzazione non esiste neanche, no? Una parola esiste, che è quella che ho detto prima, è maestro collaboratore, però in realtà non significa niente per nessuno, non si capisce neanche che è un pianista, un direttore d'orchestra, che cos'è. Invece in tedesco c'è un termine un po' più specifico, è solo repetitor, Solo Repetitor, che è un po' una parolaccia, che designa il pianista d'opera che prepara i cantanti con la clausola di dirigere anche le prove ed eventualmente delle recite del teatro. Tra l'altro scopri come una cittadina di soli 50.000 abitanti ha un proprio teatro con 2 o 3 spettacoli settimanali sempre affollati, questo per dare anche il senso della importanza della cultura in Germania, e nel giro di un anno, per arrivare alla fine della storia, ti trasferisci a Lipsia, quinta città tedesca, ex Germania Est, humus culturale imprescindibile per musicisti del calibro di Bach, Schumann e Wagner. Come arrivi a Lipsia e per lavorare dove? Anche qui ho fatto un'audizione. Lavoravo a Nordhausen ed ero consapevole della differenza di livello che c'era tra quel teatro e l'opera di Lipsia, e ho voluto mettermi alla prova. Poi l'audizione è andata molto bene e mi hanno offerto un lavoro pochi giorni dopo. Il lavoro che faccio mi piace molto, credo che a livello di qualità l'Italia non abbia nulla da invidiare alla Germania, ma purtroppo mancano le possibilità, ci scrivi. In concreto, cosa latita, Margherita? Beh, per cominciare mancano le basi. Quando io ho deciso di trasferirmi e mettermi a cercare audizioni, mi è bastato andare su internet e cercare quali teatri facevano audizioni, ed in Germania ci sono siti pieni di elenchi con le audizioni aperte, eccetera. Non dico che sia facile, ma almeno sai dove cercare. Invece in Italia le audizioni non sono così frequenti, innanzitutto, ed è molto difficile capire come entrare in un ambiente teatrale. Ancora una volta, ma anche come in tante altre professioni, la settimana scorsa abbiamo parlato di giornalisti, è l'opacità, la poca trasparenza che c'è in Italia. È pazzesco, veramente. Margherita, tu rimpiangi di non poter lavorare in Italia, paese che sotto il punto di vista formativo ti ha dato tanto, però leggendo quanto è scritto a Giovani Talenti il quadro appare un po' desolante. Quanti tuoi colleghi hai visto o vedi emigrare? Quasi tutti i miei compagni di studi sono emigrati all'estero, quasi tutti. Quindi la mia non è una storia isolata. Basta aprire il sito di qualche teatro tedesco e scorrere l'elenco dei collaboratori e almeno un italiano in una posizione importante c'è. E c'è anche un paradosso. L'Italia, sostieni, potrebbe essere uno straordinario magnete di talenti nel campo musicale se solo implementasse politiche giuste, o no? Esattamente. Quali? Abbiamo teatri, musei, un patrimonio artistico sterminato e in più, per quanto riguarda l'opera, ottimi insegnanti e una tradizione di bel canto che tutto il mondo ci invidia. Cioè viene gente dall'altra parte del mondo per studiare il bel canto e noi stiamo buttando via tutto. Ci vuole un grandissimo sforzo di volontà e avere il coraggio di ricominciare da capo e mettersi davvero a riconsiderare l'opera come il nostro patrimonio culturale. Per te la domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Bisogna fare in modo che la musica torni a far parte della vita di tutti. Ed è qui con noi in studio Daniela Manusardi, pianista e compositrice, che ha fatto un percorso contrario, perché tu, Daniela, dalla Germania sei tornata in Italia. Ti chiedo subito, Daniela, quanto ti sei ritrovata nelle riflessioni nella storia di Margherita? Beh, mi sono ritrovata tantissimo, a parte il fatto che io ero partita dall'Italia nel 2002 per andare a studiare in Germania, quindi mi sono formata in Germania e poi dopo da lì non ho avuto difficoltà a trovare lavoro, a trovare una posizione sociale e a sviluppare il mio talento. Però effettivamente quello che dice Margherita posso anche sottoscriverlo, è vero. In breve, nasci in una famiglia di musicisti jazz, a 5 anni sboccia la passione per la musica classica, quindi il conservatorio, il diploma di pianoforte, hai la fortuna di vincere un concorso per titoli in una scuola civica dove lavori 3 anni, poi anche per te scatta la molla, l'abbiamo detto, che ti spinge a levare l'ancora verso la Germania. Perché? Beh, innanzitutto perché volevo migliorarmi come musicista ma anche come persona. Avevo questa fortuna di avere un posto in una scuola civica, ero molto giovane, però non avevo la possibilità di mettermi alla prova, quindi, come diceva Margherita, anche procacciarsi i concerti era impossibile. Io ero molto giovane, avevo 20 anni e volevo suonare perché avevo del talento e lo volevo assolutamente sviluppare. In Germania frequenti il master, apprezzando anche la diversa struttura accademica tedesca, poi una nuova parentesi in Italia, Reggio Emilia, con un cococò come insegnante, prima di un ritorno a tempo pieno a Singen in Germania e un concorso poi vinto nella più grande scuola di musica del Baden-Württemberg. Ti confronti col mondo del lavoro tedesco. Allora, in breve, ti chiedo aspetti positivi e negativi di quel mondo. Io ho evidenziato soltanto aspetti positivi e nella mia esperienza di aspetti negativi non ne ho mai incontrati. Devo sottolineare che sono anche molto cambiata io, nel senso che ho imparato a lavorare in un modo completamente diverso rispetto a quello che mi era stato insegnato in Italia, che avevo appreso dai miei insegnanti. E quindi il senso del lavoro, il valore del lavoro per me è cambiato. Quindi l'esperienza lavorativa è assolutamente positiva. Se devo sottolineare un aspetto negativo, proprio uno solo, è che la qualità della vita in Germania è mediamente inferiore rispetto all'Italia. Questo lo dico. Insomma, l'Italia sotto certi punti di vista, devo dire, è abbastanza competitiva, non in quelli in cui vorremmo fosse competitiva, forse. A un certo punto decidi però, e qui si differenzia la tua storia da quella di Margherita, che è ora di tornare in Italia. Perché? È la grande domanda, perché? Esclusivamente motivi personali. Torni a Milano e riesci, e questo è il vero miracolo se vogliamo, riesci a replicare la tua vita professionale tedesca qui. Allora, in breve, come ce l'hai fatta? Ho imparato a lavorare con la musica a 360 gradi. Quello che ho notato è che in Italia ti insegnano, ti preparano a suonare, ti preparano magari ad insegnare, però le cose sono divise, i piani sono divisi, mentre invece in Germania la musica è vissuta, è consumata. Concretamente cosa fai adesso a Milano? Allora, io ho aperto un'associazione culturale musicale che collabora con diverse realtà sia in Italia che all'estero, in Francia, in Germania e a Torino. Ho fondato una scuola di musica e organizzo concerti. Ne valsa la pena?